23. Molly incastrò un sasso sotto la porta dell'emporio affinché il vento non la chiudesse. Estate piena, il sole si allontanava per poche ore, l'alba spezzava le notti prima che il buio si infittisse e pesasse sulle spalle. Alle 6 di mattina il disco dorato e brillante dai nitidi contorni fluttuava un palmo sopra la foresta scossa dal vento. Era un fuoco ancora pallido, gli occhi potevano affrontarlo senza provare dolore. Un'ora dopo la luce avrebbe ferito ogni sguardo. Molly alzò le braccia sulla testa e respirò. A Canaio Arie iniziava un'altra giornata. Durante la notte aveva sentito spari, lontani. Subito oltre l'orizzonte bagliori, forse incendi, una scorribanda Oneida. Vendetta nutriva vendetta, il fratello aggrediva il fratello. Le fattorie andavano in fiamme. Non c'era marchio per un simile contagio, nessuna inoculazione poteva difendere corpi e anime. Forse la febbre doveva sfogarsi fino in fondo, scottare la carne, accendere visioni. Dopo sarebbe stato necessario un concilio da tenersi al centro della lunga casa. Presto avrebbe mandato un messaggio a Isachem degli Onendaga, custodi del fuoco sacro. Stava per rientrare, ma colse un movimento e si girò. Li vide, in fondo al sentiero. 5, uno dietro l'altro, ancora distanti. Forse miliziani. Da tempo i Whig non mettevano piede al villaggio. Nessuno aveva subito molestie. Herkimer era stato leale. Ma Herkimer era morto dopo la battaglia di Oriskany. Morto senza una gamba, col sangue trasformatosi in marciume. Chissà dov'era adesso. Chissà se aveva già incontrato William. Venivano per lei, ne era sicura, per dirle qualcosa o farle qualcosa. Gli uomini erano tutti lontani, non poteva chiamarli. Non con la voce. Sospirò e decise di attendere sulla soglia, a braccia conserte. A volo di freccia, oltre 200 miglia, separavano Johannes de Carioga dal suo villaggio. Dopo il concilio di Oswego, il Sachem, troppo vecchio per combattere a Forst Arnwix, troppo provato dal duro viaggio per tornare subito a Canaio Arie, aveva raggiunto Fort Niagara. Saggia decisione. Al suo arrivo lo aveva accolto a braccia aperte il parente più caro, l'amico più indulgente, il fratello più premuroso, il Rum. Nella stanza all'interno del forte, stordito e coricato su una branda, l'anziano Mohawk guardava al soffitto scuro e si godeva il silenzio del primo mattino. L'età e il liquore confinavano il sonno a un pugno di ore inquiete. Le nottate estive erano sature di chiacchiere e canzoni. Nuvole di suoni e rumori aleggiavano sui bivacchi, miscelandosi al fumo dei falò. Dalle finestre aperte, riverberi di parole e latrati di cani entravano cavalcando i quieti refoli di vento. Verso l'alba tutto si quietava, in attesa del cambio della guardia. I rumori della notte lasciavano il posto a quelli del giorno. Toc, toc, toc. De Carioga si girò verso la finestra. Un picchio, penne nere e cresta rossa, batteva col becco sullo stipite di legno. Toc, toc, toc. Si alzò dalla branda. Le giunture del corpo cigolarono. In fondo alla schiena un fascio di muscoli ululò. La testa era pesante, la lingua rimestò una bocca che sembrava zeppa di sterco. Toc, toc, toc. De Carioga si avvicinò all'uccello. Sei venuta per me? Il picchio alzò il becco, girò la testa di qua e di là, si spostò dallo stipite, batté le ali ma non spiccò il volo. «Sei venuta da questo povero vecchio? Sapevi dove trovarlo? Sapevi che non ha niente da fare e avrebbe ascoltato?» Il picchio tornò a usare il becco come un martello. «Toc, toc, toc!» Un gruppetto di irregolari. C'era anche un Delaware con uno strano berretto di pelliccia pezzata, non certo un copricapo estivo. Il primo della fila era Jonas Klug. Era stato cacciato dalla milizia ed era stato Herkimer in persona a farlo, ma si dava ancora aria da patriota. Giunto di fronte a lei, il tedesco parlò. La voce era una sega che grattava il marmo. «Sei soddisfatta ora, strega indiana?» Molly non disse niente. «Lo sappiamo, puttana rossa. Sei stata tu a informare tuo fratello, quel porco, quello che 2 anni fa mi fece aggredire in casa mia. A Oriskany sono morti tanti bravi patrioti. Prega il tuo dio selvaggio che non ci venga la voglia di ammazzarti qui, come una cagna, davanti al tuo bel emporio.» «Perché non lo fate?» domandò Molly. Klug aggrottò la fronte. Le labbra della donna non si erano mosse. La voce era giunta da un'altra direzione. Da dietro, no, da sopra. Gli uomini, stupiti, si guardarono intorno. Alcuni alzarono in fretta il fucile. pronti a puntarlo verso nuovi arrivati, ma non c'era nessuno. Il mormorio preoccupato fu interrotto da Klug. «Silenzio!» Poi affrontò la donna. «Pensi di spaventarmi coi tuoi trucchi? Non so come lo fai, ma ti garantisco che... andate via!» Stavolta non c'era dubbio. La voce era venuta da dietro ed era quella di un uomo. Klug dovette girarsi. Il vecchio capo ubriacone, Tecarioga, ma non era partito con gli altri? Gambe larghe, braccia abbandonate lungo i fianchi. Pareva sobrio. Klug lo ricordava più basso e curvo. Gli puntarono addosso i fucili, ma il vecchio li ignorò. Fissava Klug dritto negli occhi. Il tedesco tornò a rivolgersi a Molly Brent. «Faresti meglio a dire al nonno che...» La vedova di William Johnson aveva gli occhi rossi di collera e le labbra tese, sbiancate. Tremava. Klug seguì lo sguardo. Il bersaglio del suo odio era il Delaware. Che diavolo stava succedendo? La donna Mohawk guardava il cappello, guardava le mani, guardava il sacchetto per il tabacco appeso in cintura. L'indiano si sentiva attraversato, letto, riga dopo riga, come un libro, come una lettera intercettata. La donna era dentro la sua testa. Quel cappello era un cane. Il Delaware sgranò gli occhi, aprì la bocca, vacillò. «Si può sapere che succede?» strillava Klug. Quel sacchetto era un uomo del popolo della Selce. Il Delaware si girò verso Nathaniel Gordon, il suo capo, come per cercare aiuto. Gordon lo ignorò, gli occhi fissi sul sacchetto di pelle, il mento tagliato in due da un filo di bava. «Si chiamava Samuel Waterbridge. Le tue mani hanno tagliato le sue palle, lembo dopo lembo». Gordon urlò. Fu l'ultima cosa che il Delaware udì prima di svenire. I tagliagole si scambiavano occhiate intimorite. Stavano abbassando le armi. «Che state facendo? Vi siete rimbecilliti?» gridò Klug. Poi si rivolse a Nathaniel Gordon e al resto della sua banda. «Vogliamo farci fermare da un vecchiaccio e da una ciarlatana? Lasciate dormire il vostro indiano ammaestrato, entriamo in questa latrina e sfasciamo tutto. Che i selvaggi sappiano cosa succede a chi fa la spia». Nessuno rispose. Nessuno si mosse. Molly Brent allungò un braccio e con il dito indicò un campo, una spianata al limitare del villaggio. «Jonas Klug, la tua testa rotolerà su quell'erba». Il tedesco deglutì. Un grosso bolo di saliva e polvere sforzò le pareti della gola. «Ora vattene. Non tornare più a Canaglioarie. Quanto a voi», indicò Nathaniel Gordon, «anche voi morirete. Proverete tutto il dolore di questa terra. La vostra agonia non lascerà spazio a un solo istante di dignità». Klug fece un passo avanti. Stava per alzare il pugno, ma qualcuno afferrò il polso. Il vecchio. La sua stretta era forte. «Andate via», ripeté. La voce veniva da lontano. Klug si trattenne a stento dal vuotare le viscere. Molly era esausta, sfibrata, non aveva mai fatto nulla di simile. Si accasciò sulla sua poltrona preferita. Al forte Tecarioga si accasciò sulla branda. Il picchio era volato via. «Io ti ringrazio, donna», disse, «che il padrone della vita ti protegga sempre». Prima che il sorriso finisse di inarcare le labbra, il vecchio Sakem si era già addormentato. Canaglioarie non era più un luogo sicuro. Sarebbero tornati in forze. Gli irregolari, gli Oneida, tutti quanti, insieme o separati. La fermezza di un Sakem e una reputazione da strega non erano una difesa sufficiente. Sarebbe partita, portandosi dietro chi era disposto a seguirla, donne e bambini. Sarebbero partiti a piedi, lungo i sentieri nascosti nel bosco, perché il fiume era ormai pericoloso. Dovevano raggiungere Onondaga. Là Molly avrebbe parlato ai Sakem, avrebbe raccontato tutto. Avrebbe lasciato al sicuro donne e bambini e proseguito il viaggio. Raggiungere Fort Niagara con l'aiuto di William ce l'avrebbe fatta. Attesero la fine del tramonto nell'emporio, poi partirono. Molly e Betsy condussero fuori dal villaggio una quindicina di donne, tra cui Yuba e altre due schiave, tre uomini anziani che potevano camminare e 10 bambini, i più grandi per mano e i più piccoli sulla schiena, addormentati o svegli. A parte gli otri di pelle, pieni d'acqua, e i sacchi di frutta e carne secca, lasciavano a Canaglioarie tutto quel che possedevano per poter camminare nei boschi senza intralcio, scostare rami con entrambe le braccia, evitare buche, scavalcare radici. Subito prima di entrare nella macchia, Betsy chiamò la madre. Molly si volse. Erano sulla collina. Si vedeva l'intero villaggio. «Madre!» «Sì, Betsy?» «Guarda, c'è un lume acceso all'emporio!» Era vero. Quando si erano chiuse la porta alle spalle, l'emporio era al buio completo. I Whig, o le loro spie, non avevano perso tempo.